Il sogno è morto, che nessuno sogna più. Ma non è morto, è stato solo dimenticato. Il sognatore è confinato nell'oscurità. Io cerco di cambiare tutto questo e spero anche tu.